Ah, siamo in onda, siamo in onda. Giuseppe Spinillo qui con me a Radio Onda Rossa. Io sono Paolo Pesce Nanna. Pesce è il soprannome, però è diventato, diciamo, un titolo nobiliare quasi. Paolo Pesce Nanna. Mi chiamo Paolo Nanna e sono un raccontatore di storie. E qui sono ospite a Radio Onda Rossa da Federico, dopo mesi che mi inseguiva una cosa, un'altra. L'ultima sembrava fatta, invece mi è andata via la voce, adesso mi è tornata e spero che si senta bene. Un saluto a tutti e a tutte. Si sente. Giuseppe Spinillo non è così il mio poeta vivente contemporaneo preferito. Vivente, sei gratta sempre, qui lo puoi fare, non ti vede nessuno. Giuseppe, se vuoi, tranquillo. Rasp. Ah, allora. Che dire, iniziamo questa trasmissione in narrazioni periferiche poetiche. Poetiche perché ci sei tu, altrimenti erano narrazioni periferiche e basta. Io sono un raccontatore di storie, come ho detto, e molti si domandano come mai ho iniziato a fare questo mestiere. Ci sono due versioni, una più poetica, visto che ci sei anche tu, e una più terrena, materiale. Iniziamo con quella poetica, il perché ho iniziato a fare questo mestiere 10 anni fa. Allora, perché quando i ricordi hanno cominciato ad essere tanti, no? Eri a prepotenti nella testa, mi sono cominciato un po' a preoccupare. Perché un po' perché sto invecchiando, no? Hai visto gli anziani di adesso, cioè di adesso, i giovani di adesso. Gli anziani si ricordano quello che hanno che è successo, ne so, 40 anni fa, e non si ricordano quello che hanno mangiato a pranzo, no? Io mo sto a vedere con i miei soci a casa, perciò mi sento molto vicino a questo problema. E allora, quando sti ricordi cominciano a riaffiorare prepotenti e non mi ricordo più, non vorrei fare la fine di quel vecchietto che mi abitava davanti a casa a Centocelle quando ero giovane, quando ero, diciamo, cioè avevo 10-11 anni, che ogni volta che mi vedeva passare, mi chiamava, mi faceva mettere a sede, mi guardava dritto nell'occhio e cominciava a raccontarmi le storie. E storie sue. La maggior parte erano storie di guerra, no? Mi diceva quanto aveva sofferto la fame lui in gioventù e che una volta si era dovuto mangiare due sorci bolliti. Ammazza che schifo, gli dicevo, due sorci bolliti, di vedere quanto sono buoni quando non mangi da 4 giorni. L'importante è metterci tanto limone sopra. Col limone i sorci prendono il gusto delle quaglie. E guaglie. Ho capito, Giuseppe, perché ogni volta che mi invidi lì dal quagliare al quarticciolo ti dico lascia perdere, andiamo in pizzeria, per questo motivo. Poi mi raccontava quando una volta aveva scavalcato un muro, no, per rubarsi le albicocche, era scivolato e aveva sbattuto la testa da 4 metri e era morto. Gli dicevo guarda che eri svenuto, è impossibile che eri morto. No, ero morto, e si incazzava pure. Dice dopo 3 giorni sono risuscitato, mi hanno messo pure un articolo sul giornale e la gente ha gridato al miracolo. Poi mi raccontava di quando aveva fatto la guerra a Corfù, in Grecia, aveva combattuto e in proiettile l'aveva trafitto da parte a parte. E lì eri morto, gli dicevo, là eri morto. No, lì ero svenuto, perché il proiettile come entrata e uscita non ha toccato nessun organo vitale. S'alzava la maglietta e mi faceva vedere il buco, Giuseppe. E il buco c'era. E poi continuava a raccontarmi di quando aveva fatto la staffetta partigiana a Centocelle, che se nascondeva sotto le viscere del quartiere, perché a Centocelle sotto è tutto vuoto. Ci stavano le cave da puzzolana, adesso ci stanno le fungaie. Apposta qui il nome Centocelle, capito? E poi me l'ascoltava quando si era innamorato di un olandese, era andato fino ad Amsterdam a piedi. 6 settimane ci aveva messo. Dice, l'importante è cantare, perché il canto è la benzina per l'uomo. E mi raccontava tutte queste cose, io rimanevo affascinato, solo che poi ci stavano amici che mi aspettavano, no, per andare a giocare a pallone. E il pallone, Giuseppe, ce l'avevo io. E io perciò mi alzavo e mi andavo a giocare. E così, grazie a questo vecchietto che purtroppo non mi ricordo più il nome, e a mio padre, che ho iniziato a fare suo mestiere, a raccontare le storie. Ti è piaciuta? Fighissimo. E questa è quella poetica. Poi vuoi sapere... Quella sfigata. È che io c'avevo un bel lavoro, Giuseppe. 10 anni che lavoravo là, no? Sotto a Riccia. Ero pure trasferito a Riccia da Centocelle per seguire il lavoro, stavo più vicino senza fare tutto il traffico. Poi un bel giorno mi hanno chiamato e mi hanno detto... Non sai quanto ci dispiace, ma non ce la facciamo più a mantenersi la villa, i Mercedes, gli appartamenti, le proprietà. Abbiamo deciso di adottare una nuova strategia di mercato che consiste nel tagliare tutte le spese superflue. Praticamente si è licenziato. Dai, fa qua, faccia là, mi hanno detto. Oh, è mica una questione personale, sa. Non abbiamo mica licenziato soltanto te, ma tutti quelli che come te hanno un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato. Poi lo capisci bene, sei un ragazzo intelligente, con uno stipendio tuo ce ne paghiamo 3 al nero. Oh. magari ci mettiamo tre polacchi, tre rumeni, tre albanesi. Poi mi è venuta in mente una cosa, gli ho detto scusate, forse ricordo male, ma non eravate voi quelli che proprio non li potevano sopportare gli stranieri? Non eravate voi quelli che volevano chiudere le frontiere e ricacciarli a carci in culo al paese loro? Eravate voi o me sbaglio? Sì, ma che c'entra? E noi mica siamo razzisti con tutti gli stranieri, sa? Noi siamo razzisti solamente con quelli che vengono qui a rubare il posto di lavoro a noi italiani. Noi siamo razzisti con quelli che vengono qui a spacciare la droga ai nostri figli, a imporre il velo alle nostre donne, a stuprare. Ecco, noi con quelli siamo razzisti. Ma con quelli che vengono qui a lavorare, al nero, beh, ricordatelo, noi per quelli ci avevamo il massimo rispetto. E poi non sai quanto è difficile fare l'imprenditore oggi con tutte queste leggi, queste regole da rispettare. Perché se assumi qualcuno con te, assumi. Se pigli qualcuno con te, invece di essere riconoscente per tutta la vita che gli hai dato una chance, un'opportunità di lavoro, l'ha salvato dalla miseria, dalla povertà, lo sai che te fanno dopo un po' di tempo? Cominciano a reclamare i diritti. E ferie pagate, la busta paga, la malattia. Dica, oh, ma con la Cina gli ero al culo che spigne sul mercato. Se non ti sacrifichi per l'azienda, se non lavori il sabato e la domenica per l'azienda, mi conviene chiude e buonanotte. Ah, mio caro pesce, comunque buona fortuna, mi hanno detto, ma soprattutto, fra me e te, senza rancore, senza rancore. E questo è come senza rancore, Giuseppe, senza rancore a tutti. E così mi sono ritrovato senza rancore. Praticamente, questa è quella la verità vera, no? E anche il vecchietto un po' influito, mi sono ritrovato senza lavoro, senza rancore e a casa. Cioè, avevo 40 anni, avevo appena stipulato 3-4 mutui, macchina, ma casa. E ho detto che posso fare, che posso fare? E ho scritto questa cosa che poi abbiamo fatto anche con Giuseppe Spinillo, che c'è sempre. Sai, Giuseppe? Sì. Sì, c'è, c'è. Abbiamo fatto anche un'opera teatrale, dicevo, un'opera, troppo, no, un'opera teatrale, una giornata da disoccupato. No? Ti una ricordi? Pièce teatrale. Non lo so io l'inglese. Ah, non è l'inglese? Ah, vabbè. E allora ho detto, la devo prendere con filosofia. Che devo fare? Non è che mi possa ammalare e farmi diventare sangue amaro soltanto perché ho perso il posto di lavoro. Non so né il primo e non sarò nemmeno l'ultimo. Certo, è un problema, specialmente alla mia età, perché sembro giovane, ma ho i miei annetti. Molte persone sono prese dallo sconforto, dalla depressione e si suicidano, se danno fuoco, se buttano sotto un treno. Ma io sta soddisfazione non gliela do mica. E poi il lavoro che cos'è? Il lavoro è stato creato per rendere l'uomo schiavo. Ecco, l'uomo si deve sfiancare, non deve pensare, non deve ragionare, deve solo produrre, anche perché l'uomo pensante è in pericolo. Già, e infatti tutti i più grandi pensatori non è che lavoravano, non è che stavano alle 6 del mattino e si facevano un'ora e mezza di traffico per andare a lavorare e un'ora e mezza di traffico per tornare a casa. Non è che alle 7 del mattino cominciavano a litigare col mondo intero, con quello che te vuole superare a sinistra, con la pippa che te fa prendere sempre il semaforo rosso, con quello che te vuole rubare parcheggio, col vigile che te vuole fare la multa, con lo scuderone che te fa la fiancata. Io volevo vedere questi grandi pensatori come stavano dopo una giornata al cantiere, alla sera, dopo due etti di spaghetti e mezzo litro di vino. Ma lo sai che sonno gli veniva, Giuseppe? Altro che mettersi a scrivere filosofia. Già, il lavoro salariato è una schiavitù. Però per non chiamarla tale, te pagano. Te danno quelle 1.000-1.400 euro al mese. Quel poco poco, giusto per non farti affogare del tutto, no? E poi loro ti danno i soldi e come si fa con le scimmiette quando gli danno le noccioline, no? Oppure ai cavalli e le carote o ai fuochi e i pescetti dopo che hanno eseguito bene un numero, ecco. Che poi i soldi che ti danno se ne vanno quasi tutti in benzina, che metti nella macchina che ti serve poi per andare a lavorare. Dico, io lavoro per andare a lavorare, allora mi resta a casa, Giuseppe. Dici, prendi i mezzi pubblici, te li raccomando, a parte che costano pure quelli, no? Ma nemmeno funzionano bene, treni zeppi come cari bestiame, corse saltate, scioperi selvaggi e poi la gente è maleducata, la gente la mattina c'è un arido che ferma, non se lava, puzza, no. E poi il lavoro è pericoloso. Esci, sai se rientri, vivo. È peggio di andare in guerra. Però in guerra almeno lo sai che ci stai, stai in guerra e c'hai anche le armi per difenderti. Invece al lavoro sei disarmato. E se c'hai l'armi, sono scariche, come è successo con gli istintori agli operai della ThyssenKrupp. Cioè, avevano scariche, voti. E vabbè, cerchiamo di prenderla con filosofia, va? Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno. anche se morto dipende dal contenuto del bicchiere, perché se dentro c'è l'acqua per me è mezzo vuoto, se c'è dentro del whisky, beh, già mezzo bicchiere di whisky è mezzo pieno. Comunque tutto dipende se c'è sete o no, se c'è sete bevi. Allora, prendiamola con filosofia. Adesso che non ho più un impiego, diciamo che posso dedicare più tempo a me stesso. Ecco, posso riascoltarmi un buon CD dall'inizio alla fine. Posso rimettermi a scrivere e posso rimettermi pure a leggere le poesie, magari di quel poeta contemporaneo vivente preferito, Giuseppe Spinillo. Ma dove avrò messo? Dove avrò messo sto libro che avevo comprato? Qua. Ah, Giuseppe. Sta qua. Ecco. Giuseppe Spinillo so io, il poeta vivente preferito. Contemporaneo. Ci mancherebbe altro. Non siamo in differita, siamo contemporanea. No, io... Anche io narrerò delle storie con un altro linguaggio, linguaggio della poesia. Già a volte con Paolo abbiamo fatto questo modo di fare un spettacolo, diciamo. Narrazioni periferiche, il termine periferica è quello che ci unisce in qualche modo. Periferia non solo come quartiere della città, ma periferia anche del mondo e periferia anche di senso. In questo caso periferie culturali, periferie di tutto. E io in questo caso inizio anche io col lavoro. La prima cosa che leggo è una poesia dedicata a Sergio Marra, Bergamo, 36 anni, si è dato fuoco, è morto, la tragedia di un operaio disoccupato. Sabato 30 gennaio 2010. La sentenza di morte l'ha emessa un coro di oneste persone che non dicono nulla e con loro non dire ti lasciano piano morire. Olio crudo sulla tua disperazione e poi fiammiferi, un accendino, lo sfregamento della vita sul destino. E per un attimo solo, da operaio a supernova. Licenziamento, svuotamento di senso, gesto estremo, fuoco che viene dal gelo. Nessuna libertà di scelta, nessuna libertà di pensiero, solo l'intimo convincimento di un vuoto sempre più presente. Sergio Marra, operaio, disoccupato, licenziato, hai smesso di cercare il nulla nel niente. E ditemi, brave, oneste persone, ditemi, cos'altro deve accadere per dire basta? Intanto, a casa Pound, fanno scuola di mistica fascista. Ma voglio liberare un po' di energia, liberare un po' di energia. La gente come noi non molla mai. Se elezioni, fato e potere ci danno per vinti o per spariti, il giorno dopo siamo già rialzati. Perché la gente come noi non molla mai. Siamo lì che pensiamo, piangiamo e poi ridiamo e sbattiamo i piedi senza dare ristoro a chi ci vorrebbe spenti e rassegnati. E ripetiamo lo stesso verso, con sempre nuove parole. E se ci cambiano le regole sotto al sedere perché non ci si possa più vedere, testardi e impenitenti siamo lì a ritagliare spazi, vita e momenti, perché quelli come noi non mollano mai. E se a volte siamo precari come foglie autunnali, arriva di colpo qualcosa che ci ridà coraggio, ricostruisce un senso, ci illumina d'immenso. E nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai e, per dirla con Dante, la gente come noi non molla mai. Nello stesso luogo, nello stesso verso, nella stessa piazza, stessa razza, razza ribelle, rebelde, testarda impertinente, testarda gente. Ed io lo so, e voi lo sapete, e tu lo sai, che gente come noi, gente come noi, gente come noi, non molla mai. Mai. Ah... ti faccio un applauso io, Giuseppe, ogni volta che sento questa poesia di Giuseppe, che poi me l'hai fatta scoprire tu la poesia, no Giuseppe? Che io proprio il nulla, lo so, io proprio i poeti io proprio li evitavo proprio, perché la ricerca cioè è una colpa mia. Poi ho scoperto Giuseppe Spinillo e mi sono innamorato della poesia di Giuseppe Spinillo. È un grande contemporaneo vivente preferito. Questa cosa delle elezioni mi ha fatto venire in mente che è successo qualcosa ieri a Roma, però non so, non si parla qui a Radio Onda Rossa, non parliamo di elezioni, però è successo che qualcuno se n'è andato, no? No, perché io mi dispiace pure un po', a dirti la verità, perché Giuseppe, lo sai che parecchi, cioè due anni fa era successa a Roma la neve, no? Tutto è successo il casino a Roma. Io sono pure un comico, ho raccontato le storie, però sono un comico, perciò abbiate pazienza. E praticamente stavo a Riccia, avevamo affittato il teatro di Satiri, poi ci facciamo pubblicità, poi ci facciamo che disordi, per 12 giorni. I primi 6 giorni era tutta rimissione, Giuseppe, ti ricordi? Tutta rimissione. Gli ultimi 6 giorni era il guadagno, finalmente. E che è successo? Ha cominciato a nevicare come diavolo, mannava proprio la neve a raffica. E perciò tutto sospeso. Io stavo a Roma, bloccato a Roma, a Riccia, bloccato, non potevo scendere. Telefonavo, dicevo, no, qua a Roma è successo, non si può scendere, non si può muovere, la neve a Roma. E che ho fatto? Visto che sto raccontando, mi sono messo a scrivere e ho scritto la neve a Roma. La farò adesso e poi mai più, perché è finita un'epoca, diciamo, no? È finita, vedi, i disagi di quando poi il sindaco se ne va. E io avevo scritto, che figa la neve a Roma. Se mai ricordo avrei fame, perché adesso di getto mi è venuto, non lo so. E avevo scritto così, che figo la neve a Roma. Quando fa la neve a Roma, tutti cominciano a spazzarla, a toglierla via da sopra i marciapiedi, da davanti alle piazze. Che figo la neve a Roma. Quando fa la neve a Roma, tutti cominciano a fare i pupazzi di neve. E quando dico tutti, proprio tutti, tutti, oh, sia i grandi che i piccoli, più i grandi che i piccoli, a dire la verità, perché i ragazzini non gli vado a fare i pupazzi di neve, e sono i genitori che insistono, dai, e dai, fammi il pupazzo di neve, che se divertimo, entra dentro casa, prendi l'olive che gli facciamo, gli occhietti e tutti i bottoncini, dai, dai, e prendi pure una cipolla, gli famo la bocca, dai, dai, prendi l'insalatina Riccia, gli famo tutti i capelli, dai, e la carota per naso, dai, che se divertimo, e il ragazzino diventa una specie di manovale, va avanti, indietro, dentro casa, mezzo sudato, poi si fanno una foto davanti al pupazzo di neve, e vedi la madre e il padre sorridenti, e il ragazzino mezzo che gli fa, perché è stanco, più che altro è stanco, davanti tutto faccia imbruttita, poi gli prende pure la febbre perché ha sudato, entra dentro casa e i pupazzi di neve compaiono dappertutto quando fa la neve a Roma. Giuseppe, non contato uno all'altezza della Palmiro Togliatti con la Tuscolana, dei 2,20 metri, pupazzi 2,20 metri. Che figa quando fa la neve a Roma. Quando fa la neve a Roma non si va da nessuna parte, chiudono le scuole, chiudono gli uffici, chiudono i teatri, ahimè, chiudono i cinema, non si va da nessuna parte, però si scende tutti sotto casa a giocare a palle di neve, ore e ore a tirarsi le palle di neve in fascia sui capelli, tutti fradici e sudati quando fa la neve a Roma. Che figa la neve a Roma. Compaiono così all'improvviso centinaia e centinaia di slittini, i ragazzini dappertutto, ma dico, do cazzi, li prendono tutti questi slittini, i ragazzini? Tutti, ogni ragazzino c'ha uno slittino. E invece i genitori e i cadene in macchina no. Niente, gli slittini sì, magari. Che figa la neve a Roma. Quando fa la neve a Roma sembra di stare a Monte Livata. La gente esce ca salopette, chi i bomboni, col cappello d'armata rossa, col pari orecchie. E tutti vanno in giro, ho contato gente che sciava a 100 celle. La vedi che sta, uno che sciava, e tutto cazzo vai. Ma sci a 100 celle. Che figa la neve a Roma. Quando fa la neve a Roma sembra che sta a Tokyo, ognuno esce con la macchinetta fotografica, tutti i romani con questa macchinetta e fotografano tutto, tutto. Guarda, un semaforo con la neve sopra, guarda, oh, un secchione della monnezza con la neve sopra, vedi, oh, guarda, merda di cane con la neve sopra, guarda, che beh, bellissima, che figa la neve a Roma. Quando fa la neve a Roma poi succede un fatto stranissimo che ho saputo adesso, infatti questo sindaco ci ha regalato anche perle di saggezza. Succede una cosa, non so come definirla, una cosa biologica e geografica, un evento che solo a Roma succede, lo svenimento degli alberi, che ai più sembrano che gli alberi cadono a Roma, invece no, svengono, perché gli alberi a Roma non sono abituati alla neve, stanno picazzi loro così e stanno dicendo, ciao, mi sento un po' di freddo, ma che è sta roba che sta accadendo? Oh, e io mi sono mezzo agghiacciato, oddio mi sento male, sbarabò, e cadono giù. Lo svenimento degli alberi, mi hanno detto che si chiama, non sono cadute di alberi. Che figa la neve a Roma, che figa la neve a Roma. Il giorno dopo, Giuseppe, il giorno dopo tutti i ragazzini che giocavano a palle di neve stanno a letto ammalati con la febbre. E strade sono sempre chiuse, sembra che è scoppiata la terza guerra mondiale, macchine in panne, buche, alberi svenuti sopra le macchine, pure la mia mi ha sfiorato. E poi tu accendi il televisore e senti il sindaco che ti dice, non si può uscire se non per motivi urgenti. Tu ti guardi con tua moglie e dici, oh, siamo rimasti senza mangiare, che sarà un motivo urgente per uscire? Che ne so, beh, proviamoci. No, si può uscire solamente con le catene, anzi no, solamente con le i pneumatici da neve, anzi no, non siamo usciti, anzi vabbè, uscire, tu stai lì, dico, che cazzo devo fare, devo uscire, devo rientrare, non si sa, e però sei rimasto senza la magna. Allora sei dall'assarto ai pupazzi di neve dell'altri a cercare di rimediare almeno due olivette, una carota, una cipolla per far meno un minestrone, Giuseppe, qualcosa, e lì succede di Dio, gente che scappa con la capoccia di un altro del pupazzo, e succede di tutto. che figa Aneva Roma, cominciano i primi voli sui marciapiedi, gente, ospedali pieni, pronto soccorsi, scafoidi che sartano, menischi. Allora ci mandano quelli del TG3 a intervistare la popolazione e dicono: senti, ma perché non avete spalato a sta neve? C'ha ragione il sindaco, dovete spalare. E quelli si incazzano giustamente e dicono: no, e noi siamo mica siamo 100 mani, ce ne siamo due, o fammi pupazzi di neve o la spalamo, decidetevi. Che figa Aneva Roma. Poi parecchi quartieri sono rimasti senza luce, senza acqua. Però dico, sta cosa sono rimasti, anche avendo questo problema, diciamo, sono fortunati, sono stati fortunati, perché se sono risparmiati quel teatrino della televisione, dello scaricabarile delle istituzioni, no? Da Corpa, tipo Alemanno che dava la Corpa alla Protezione Civile, la Corpa la vostra, ma ti ha detto che faceva 10 centimetri, ha fatto 10 metri, ma come, che sarsare, mi ha dato lo zucchero, la Corpa la tua, la Corpa la tua, ah mia, la Corpa tua Giuseppe, no, la Corpa della Federica, la Corpa da chi è? E come tutte le cose italiane non si saprà mai di chi è stata la Corpa, anzi forse quella volta sì, è stata la Corpa del cittadino, che invece di fare i pupazzi di neve doveva spalarla. Però io mica ho capito questa cosa, ma è così figa Aneva Roma, poi chissà quando ricapita, ho pensato, ma quando ricapita? 5 giorni dopo, grazie, la Aneva Roma, che bella questa cosa che mi ha fatto ricordare Giuseppe. Sento un po' più fredda adesso. Un pochino. Ok. Sto pensando a un altro episodio che è accaduto a Roma. Quando pensi, mi timorisci. 6 febbraio 2011. In morte di 4 bambini rom nel rogo notturno di un campo nomadi di Roma. Gli esseri pericolosi che teme tanto Alemanno, che ha temuto per tanto tempo i bambini rom. E seduto sul bordo del fiume, conto i grappoli appesi alla vita. Ogni acino ha il suo colore, ogni acino dona il suo vino. E quel vino ha un certo sapore, d'aria dolce o di terra smarrita. Libertà. Dammi le ali, libertà, stringimi forte. Questa notte il freddo l'ho sentito arrivare. Ed un fuoco senza camino ci ha bruciato le vesti sul cuore. 4 acini, un solo dolore. 4 acini senza la libertà. E seduto sul bordo di questo fiume sento l'eco di tante parole. Quelle fragili restano al suolo, le menzogne volano verso il mare. Wow! Non si può prendere tra le braccia l'aria, la si può solo leggermente amare, farla sospingere dal vento e dal sole, farla cospargere di neve e sudore, la si può leggere piano all'imbrunire, scarna e sensibile al nostro navigare. Non si può prendere tra le braccia l'aria, la si può solo spargere e suonare, con suoni fatti con strumenti antichi che danno ritmo al nostro respirare. Non si può prendere tra le braccia l'aria, ti sfugge via e non ti lascia fare, si può soltanto stare a respirare. Non si può vendere, non si può comprare, la si può solo perdere e sporcare. Non si può togliere, non si può legare, vale soltanto se la lasci fare. Non si può prendere tra le braccia l'aria, non si può accenderla. Non si può sposare. Ci faccio un dico e ci benedico il nostro coabitare. Ah, Giuseppe Spinillo. Giuseppe, mi prendi sempre all'improvviso che sembra che l'hai finita e poi te ne attacchi subito un'altra. Io volevo dare un po' di leggerezza, un po' di aria per liberare un pochettino tutti. No, ma lo so, ti conosco. Ah, come stiamo messi, Giuseppe? Qui tutti i fogli, meno male che non ci vedono, siamo disordinati, Siamo molto disordinati. Che dire? Che la gente, com'è la gente in questo periodo, Giuseppe? Non molla mai. No. La gente non molla mai, però dico la gente è strana. Strana. Dico la gente è proprio ignorante, la gente è maleducata, la gente. Dico la gente è in se regola, oh. Ma la gente, dico, ma boh, la gente è menefreghista, qualunquista. La gente, Giuseppe, è cattiva, ecco. La gente. Ma poi la gente, ma chi è? Dico, ma chi la conosce, ma che vuole? Chi è la gente? C'hai sfruciata, mi raccomando, la gente. La gente è l'alibi perfetto dei tuoi peccati, ecco, la gente è l'altro. Perché quando tu gli dici a gente, io dici, ma chi è a gente? Ti dicono, a gente siamo noi, no, a gente è l'altro. Non è mai colpa tua, la colpa è da gente. Allora ho fatto una storia sulla gente. Perché proprio pochi giorni fa mi è successa una cosa. Stavo alla fermata dell'autobus, aspetta, quando si è fermata una macchina, ha tirato giù il finestrino, ma guardate, mi ha detto, che ti serve un passaggio verso Roma? Oh, mi sono voltato, ho detto, ma che c'ha con me? Perché ci stanno pure delle ragazze, ho detto magari. Dice, guarda che c'ho con te, oh, pesce. Ho guardato meglio, era un amico che non vedevo dalle medie, pensa te. Allora ho accettato e sono salito. Per fare 20 km ci abbiamo messo oltre 2 ore. E questo ha cominciato. Ma che schifo, la gente non si regola proprio, la gente. Lo dico, per andare al lavoro prendono tutti alla macchina, se tu ci fai caso, ogni macchina c'è una persona. La benzina dovrebbe andare 2 euro al litro, voglio vedere se la prendono alla macchina. La gente. E tu guarda che c'è sta 2 euro al litro. Allora a 10 euro al litro, così voglio vedere una persona per macchina, ma te rendi conto, la gente. Mi sono voltato, ho detto, ma scusa, ma quelli che stavano in macchina con te, ma che sono morti? Ma che sei matto? Io in macchina mia ci faccio salire nessuno, ma che sei? Io mo perché ho visto a te per stavolta, sei un vecchio amico, ma la gente la mattina c'è un alito che ferma, tu. Ma sentite, la gente se lava, puzza, è per questo che nemmeno prendo più gli autobus, è per colpa della gente. La gente. Senti, mi fa, la gente non c'è rispetto per nessuno, eh? Né per anziani, per codice civile, per donne, guarda sto bastardo che mi vuole superare, fa. E pur di non farlo rientrare, effettua una manovra talmente folle, ma talmente folle, che se riuscimo a fare un incidente con meno di 6 morti, comincio a ringraziare Papa Francesco. Francesco Totti, a Madre Teresa de Tindari, a Madonna Nera de Tindari, anzi, Padre Pio de Pietrelcina, eppure il mister Zeman che ci sta sempre bene, che ci aiuta. Poi mi guarda e mi fa, hai visto? Se non stavo attento mi stavo avanti, della macchina. E poi nemmeno un uomo, è una donna, sta mignotta, poppilara, la gente in si regola. E te lo dico, la gente non c'è rispetto nemmeno per anziani. Guarda, ho detto, Pada, stiamo a ficcare sotto qua anziano, ma non hai visto? Ho visto. Solo io ho voluto far mettere un po' di cacca nel pannolone, perché gli anziani che non c'hanno un cazzo da fare, vanno avanti e indietro sulle strisce bianche, la mattina e la sera. Ma tu lo sai? Che gli anziani che non hanno niente da fare e fanno avanti e indietro sulle strisce bianche la mattina e la sera provocano più incidenti dei cervi, eh? O sai? La gente in se regola. Quando parlo con la gente mi sembra di essere una mosca bianca. Oh. Per esempio, dei zingari, che ne pensi? Per me, fa, che la gente li vuole cacciare fuori dai centri abitati. Per me vanno abitare proprio al centro di Roma, i zingari, proprio al centro di Roma. L'importante è che stanno chiusi dentro le palizzate col filo spinato e 220 volts. Perché il problema di zingari, sai qual è? I cuccioli di zingari. Quello è il vero problema. Quando riescono a uscire da accampamento, dal loro habitat, arrivano al cassonetto, lì allarme sociale. È come quando escono i cuccioli dell'orso marsicano dal parco nazionale, però lì, capito, gli dai qualche polpetta e ti levi. Invece i zingari digeriscono pure la cicuta. La gente non si regola, la gente. Che poi la gente te vede che stai bene, cerca di fanno di tutto, del tutto per affossarti, per fatte le prime. Scusa, mi sta a squillare il telefono, scusa. Sì, dimmi. A Mario, scendi dal ponte, che sta a fare sul ponte? Te vuoi buttare? Mamma mia, ma solo alla morte non c'è rimedio, scendi dal ponte, capito, ma non piagna, solo alla morte non c'è rimedio. Non posso venire, l'ammo, e sto a partire. Sono in Brasile, sì, non lo so quando torno, non lo so, 3-4 mesi, scendi dal ponte, ma come sta arrivando la gente, che è stato rumore? Sa, la polizia non chiama, scendi dal ponte, Mario scendi, Mario non posso venire? Mario, ho perso, Mario non ti sento più, ciao, e attacca. Ho detto chi era? Era Mario, quello scassacazzi di mio fratello. La gente in se regola, la gente. Ho detto, senti, fammi un favore, sono arrivato, fammi scendere. Sono sceso, stavo tutto nervoso. C'aveva la pressione alta, i battiti accelerati. Ho detto, devo stare calmo. Questo con sta gente mi ha esaurito. Devo star calmo, perché il dottore mi ha detto che non mi devo arrabbiare, se no mi sarà la pressione. Mo speriamo che nessuno ha preso il posto mio, che da lì di qua non c'ho voglia. Così mi sono cambiato, mi sono messa la minigonna, i tacchi a spillo, un po' di rossetto. È passata sempre la stessa macchina che passa tutte le mattine, mi ha chiesto quanto vuoi. E quanto voglio? Tutte le mattine passi, sono 30 di bocca, 50 all'amore. Sì, vatti a far giro, tanto sempre qua attorni. Certo, la gente è strana, eh? Ma poi la gente, ma che ne sa della gente? Ole! La gente. E siamo dalla gente strana, Giuseppe. È strana. Gente. Ne conosco gente strana. La conosci? Io pure. Poi me ne faccio conoscere due. Ma perché mi guardi? No, te sei un male rispetto a questi. Sì. Questi non sono normali. Ah, ma pure Federico sta messo bene, Federico. Sì, sì. No? Ma questi che ti dico io tra un po' stanno messi peggio. Federico. Peggio di Federico. Va bene. Vi dico una data? Te la dico una data? Vai. Dimmi. 14 settembre 2008. Siamo a Milano. Viene rubato, ipoteticamente, un pacco di biscotti. Padre e figlio corrono dietro Abdul Salam Gweber, detto Abba, e lo ammazzano di botte. brava, bella gente, bella gente. Famiglia, la famiglia. La famiglia. Non li mangio i tuoi biscotti. Sono limiti di briciole sul petto. Sono lividi su questo inizio notte. Non li mangio i tuoi biscotti. La tua razza è fatta da chi se ne fotte. Sono rantoli di uova, burro e bile, mescolati con fango, asfalto e miele, additivi, OGM e rimasugli di un amore andato a male. Sono tracce di sudore, sangue e rabbia. Non li mangio i tuoi biscotti, con granelli di una sabbia tra le unghie, preso a calci, pugni e sputi da una razza di animale che difende il suo potere da ogni vento che minaccia cambiamento. No, non li mangio i tuoi biscotti. Ma sapete, quando leggo queste cose mi viene sempre di dire qualcosa di diverso dopo. Un testo che leggerò adesso è nato in una situazione particolare. L'ho scritto in Palestina, in una visita nei territori occupati Cisgiordania. Poi mi è capitato di andare in un viaggio solidale in Chiapas, nei territori zapatisti. E partecipando a una festa di un caracol, ci è stato chiesto di dare un contributo a questa festa. Allora, aiutato da una ragazza spagnola e da un ragazzo messicano, e abbiamo tradotto questo testo in spagnolo e davanti a tutta la comunità del Caracol abbiamo letto la versione spagnola e la versione italiana. Chiaramente adesso leggerò la versione italiana perché lo spagnolo non sono proprio... Siamo vicini come piccole gocce d'acqua in un catino. Siamo la voce di un bambino che ripete per mille volte la stessa parola e che allo sguardo indispettito dell'adulto risponde con un sorriso. Siamo il viso di una vecchia in un villaggio che ci rinfresca con l'acqua di un secchio. Siamo una tavola imbandita di mosche e d'amore. Siamo il coraggio di vivere che non muore. Siamo una voce stentata che racconta e non smette di narrare. Siamo piccole gocce d'acqua dolce che non si disperdono nel mare. Siamo il coraggio di amare. Barche contro vento, lo spavento rientrato nel porto. Un viso rugoso ma aperto. Un checkpoint abbandonato. Uno sguardo vissuto. Siamo un coro di voci di bimbi, e bella ciao, e partigiano portami via. Siamo gocce d'acqua fresca su labbra assetate. Siamo le risposte non date che cercano la giusta domanda. Siamo un io ed un te. Siamo un noi. Siamo quel bacio che ha finalmente trovato la strada. Siamo piccole gocce d'acqua in un catino. Siamo quella sete finalmente dissetata. Siamo una notte che piano diventa mattino. Ah, oh, bravo, bravo Giuseppe. Ogni volta dico sempre bravo, vedi? Dico sempre sì, bravo. Sì. Te a me dici mai. Vabbè, comunque. Bravino pure tu, però. Va bene, va bene. Giuseppe, io di questi tempi non so tu, no? Non so voi, diciamo, e mi sento come un pesce fuor d'acqua. Voi no? Mi sento così, come un pesce fuor d'acqua. E per uno che lo chiamo nel pesce è tutto dire, diciamo. Poi guardandomi un po' in giro, mi sono accorto che non so solo. Anzi, siamo in parecchi a boccheggià. Boccheggia il barista sotto casa, boccheggia il fruttarolo, boccheggia la stampa libera, boccheggia il diritto alla persona, boccheggia il libero pensiero, boccheggia la giustizia, la verità, la libertà, boccheggia l'immigrato, il clandestino, lo studente e il lavoratore, tiè. I più furbi se sono prevenuti e c'hanno il boccaglio. Le banche, i governanti tutti, i ricchi, i potenti e i padroni. I padroni. Che c'è? Che è? Non si può più usare la parola padrone. Perché? È antica, superata, desueta, obsoleta, ve dà fastidio. E allora come gli vogliamo chiamare? Datori del lavoro, ok. Alle volte anche loro, quelli col boccaglio, ci fanno vedere che boccheggiano per darte qualche calla e fate sentire la loro solidarietà e la loro vicinanza. E così decidono d'aiutarti a boccheggiare meglio dandote qualche aiutino, ma giusto quel poco poco per non farti annegare del tutto, perché a loro gli fa più comodo che boccheggi che mori. Certo. Poi ci sono anche le volte che decidono che per te è giunta l'ora di smettere pure da boccheggiare. In quei casi cercano di nasconderlo, raccontandoci un sacco di cazzate, di fatalità, di cadute per le scale, dei suicidi, di anoressie, dei colpi di pistola deviati da oggetti volanti misteriosi non meglio identificati. È successo a un sacco di persone, oh. Che vedete? Le persone, come a me, a te, a lui. E persone. È successo a Stefano Cucchi, per esempio, ad Aldo Bianzino, a Federico Aldrovandi, a Gabriele Sandri, a Marcello Lonzi, a Carlo Giuliani, a Maurizio Tortorici, Giuseppe Uva, giusto per citarne qualcuno. Poi ci stanno delle volte che uno è costretto a smettere da boccheggiare da solo. accettando lavori al nero, mal pagati e senza nessuna sicurezza. In questi casi gli uomini col boccaio non si devono nemmeno scervellare troppo a cercare delle giustificazioni plausibili per pararsi il culo. Lì si dà la colpa al lavoro, al lavoratore, amen. Oh, adesso mi devo un po' fermare, sai Giuseppe? Perché c'ho il fiatone. Perché è una fatica, pensà e boccheggia. Mi sento stanco, come se ho fatto turno straordinario dentro una fonderia. Sono sfinito, esausto. Allora, adesso forse ho capito. Perché la gente sta zitta e buona, pare che non si incazza e che non reclama e che gli sta tutto bene, ma non è così. È che loro te vanno così, che tu devi da boccheggiare, non devi da pensare. Ma noi pensiamo pure, Giuseppe, boccheggia e pensi, è faticoso, però si può fare, no? E questa l'ho dedicata pure a tutti questi che ho citato prima, specialmente a Stefano Cucchi, con questa sentenza che dice che è caduto per le scale come a inizio, no? Oppure è morto perché era così, troppo, 36 chili e non ce l'ha fatta sopportare, che ne so, un bicchiere d'acqua. Gli hanno dato un bicchiere d'acqua, che dici? No, non è nemmeno un bicchiere d'acqua. E perciò noi saremo sempre vigili a sentire il proseguo di questa ormai telenovela che è innescata dalla giustizia italiana su Stefano Cucchi e anche ad altri. Che diciamo, Giuseppe? Diciamo che vuoi altri nomi? Vai. Di quelli che sono andati un po' contro... sono nomi interessanti. Vittorio Arrigoni e Don Gallo, personaggi che ci sono rimasti in qualche modo sulla coscienza, diciamo, nella coscienza. Ci hanno aiutato a creare una coscienza. Anche Franca Rame, che qui hanno aperto, sì, penso, sì, l'altra settimana qui alla Onda Rossa. Sì, hanno creato una coscienza civile, in qualche modo. Franca Rame tanto, insomma, insieme a Dario Fo ha fatto tantissime cose. Ma io volevo dire questi due nomi, Vittorio Arrigoni, ucciso a Gaza, 14 aprile 2011, ucciso ai confini del giorno, sulle onde del tempo, quando gli occhi di uno sanno essere gli occhi di tutti, dentro un buio che ora oscilla accanto, ancora più buio, notte infame, non sapevi iniziare, non vorrai più finire, niente d'altro, sempre ingiusto, dentro il petto ci stride quel canto, a ritroso, le parole non si sanno trovare, scavallare, per amore si può anche morire, ma che almeno resti in piedi il sogno concreto per il quale salpa nave, e non smettere mai il navigare. Gaza infame, gabbia aperta alle stelle, vieni e fatti abbracciare, e consola il tuo figlio più bello, e respiragli il fiato sul viso, che ora lui non sa più respirare. Non sa più respirare. Don Gallo, l'abbiamo conosciuto. Cioè, dire che ci piace un prete è dura, ma a me è dura dire che mi piace un prete, ma lo dico, mi piaceva quel prete. Non ti rinnego, non svendo a rate il mio percorso, le tue risate. Se mi scoloro mi resta a pelle quel bianco e nero esistenziale. Non ho altri nomi con cui chiamare questo mio amore, questo liquore centellinante. Rivoluzione, agua caliente, amica, amante, verso e colore, liberazione. Caro compagno, tuo è il mio rossore. Non ti rinnego, non si rinnegano i sogni e l'amore. E tu, laico d'un religioso, respiraci addosso il tuo fiato di libertà, la tua ultima traccia di anima, e gettala negli occhi della morte e di questo mondo bigotto che non ti potrà mai scordare, che ti vorrà subito dimenticare. A Don Gallo, laico antifascista religioso. Don Gallo. E che poi l'avevo conosciuto durante il 2001 a Genova, Giuseppe, stavo con Marena, già mia moglie, già eravamo sposati, anzi no, scusa Marena, scusa, nel 2007, mi confondo, Marena, anzi volevo salutare Marena che sta lì all'Arci, Malafronte, che c'è il gruppo di ascolto, poi volevo ringraziare anche un gruppo di ascolto del No Ince, del gruppo No Inceneritore di Albano Laziale, salute, poi capito, lo so, sembravo molto Raffaella Carrà, però devo Giuseppe. Don Gallo l'ho conosciuto lì, durante degli scontri, stavo con Marena e Marina, una filosofa, un'insegnante amica filosofa di Grottaferrata, e praticamente c'erano scontri molto forti, e io venivo già, ero giovane, diciamo, all'epoca, e venivo dallo stadio, dai Moz, da Roma, vabbè, Giuseppe, mi guarda così, lo so, ma ognuno c'è il passato suo, e sapevo che stava succedendo qualcosa di brutto, e mentre Marina, che c'ha la vita, la vede in un'altra maniera, che è filosofa, ha detto, no, un attimo, dove scappiamo? Io ancora non ho, mi sono fatto il panino. Si è fermata, ha aperto un panino, ha aperto la salsa tonnè, se stava a fare un panino mentre volavano i lacrimogeni e san pietrini grossi come i mattoni, san pietrini da 5 kg, e Marina si stava facendo un panino. E lì e Don Gallo ha detto: ma dove venite? E da Roma. Eh sì, ma non ci tornate, si è detto, se non vi sbrigate non ci tornate a Roma. E ha detto: grazie Don Gallo, da mano al volo, ho preso il panino, io ho tirato e Marina è venuta via. No, questa è stata un aneddoto quando ho conosciuto Don Gallo, che ha detto che non tornavamo a Roma, però siamo tornati, Don Gallo, non ti preoccupare. Ah, una cosa mi sono sempre domandato, no? Pure penso pure voi. Vi siete mai immaginati se un bel giorno varzate e tutto intorno a te e va al contrario? Tutto, ma proprio al contrario contrario, cioè il significato delle cose, il senso delle parole, tutto al contrario. Non è che nasci, che ne so, è vecchio, muori giovane, come hanno fatto pure il firma, no? Parecchi firma hanno fatto. No, proprio tutto al contrario, proprio tipo tu cammini, ti alzi, io sto a Centocelle, mi alzo e sceno giù per via di Castagni, cammino e sento, vedi un amico tuo che sta a piangere, sta a piangere, disperato. Ti avvicini e dici: che ha fatto? Oh, lasciami stare, sono proprio iellato. Non ho vinto un altro premio. Cazzo, è Mauritius. Sono tornato mo dalle Maldive. Ma dico, ma tutto a me. Stavolta è pure per due. E mi devo portare pure Livia. Quella cozza ninfoma di fotomodella, la ricordi? Quella 1,80 m. Dico, ma che vado a fare? Ma tutto a me. Dico, tu immagini che casino che succederebbe? Tu non riesci a capire. Ti sposti un po' di più, c'è un altro amico tuo invece che si è ammazzato ai risate. Dice: che ha fatto? E che ho fatto? Dalle 7 che mi sto ammazzato ai risate, mi sono dato una mazzettata con quella da 5 kg sul ditone. guarda, tutto blu, questo è sangue pesto, eh. Guarda, come cambia colore? Nero, hai visto? Mamma mia, non ridevo così da quando stavo a giocare con mio nipote che mi ha dato un calcio qui sotto, lì proprio i crampi delle risate. Dico, tu immagini che casino che succederebbe? Tutto al contrario. Te cammini più là che sta una macchina parcheggiata con due dentro, un uomo e una donna, e senti che lei mi fa proprio schifo, ma mai quanto me. Dal primo giorno che ti ho visto, il famoso colpo di fulmine, solo io speravo di colpisse in piena faccia, colpo di fulmine. Puttana, frocio, mignotta. Mi vuoi lasciare? Certo che mi avvicina, che ti do una bella capocciata in bocca. Tutto al contrario. Dico, ma tu immagini, Giuseppe, che casino che succederebbe? Tu cammini e tutto va al contrario. Due vecchi amici che si incontrano, dice: come stai? E come sto? Sono una favola, sono pieno di metastasi. Te invece? No, io so pulito, mica sono fortunato come te, io sono nato senza camicia. Tu, ma si vedeva da inizio che te eri proprio fortunato, si vedeva. Da qua, la volta che abbiamo fatto le medie insieme, ti ricordi? Hai saltato 2 anni, oh. Ti è ripresa una malattia talmente rara che allo Spallanzani gli hanno dato il nome tuo. Dico, ma dove sei mai vista? Una malattia che gli danno il nome tuo. Dico, tutto al contrario. Ma tu immagini che casino che succederebbe? Tutto al contrario. Un giorno ti svegli e tutto al contrario. Le forze dell'ordine, invece di difendere i cittadini, gli emenano. I ladri che invece di stare in galera vanno al potere, governano, tolgono le leggi che gli danno più fastidio e se fanno quelle per proteggersi. Mentre le persone oneste, che non arrivano a fine mese, mettono i soldi in banca e invece di aumentare diminuiscono. Dico, tu immagini che casino che succederebbe? A giugno esci con la sciarpa e a novembre in calzoncini. Un criminale in capo di una banda, per esempio quello della Magliana, per esempio, capo della banda della Magliana, lo uccidono dopo una vita di omicidi e spaccio di droga, e dove seppelliscono? Dentro una basilica insieme ai santi e ai papi. Dico, immaginate che casino che succederebbe? Al governo ci va il PD e il PDL, dopo che se sono dette di tutte. Che valori, Giuseppe, chi governa? Il PD e il PDL. Oppure la finale di Coppa Italia, giocano a Roma, metti, no? E gioca a Roma contro la Lazio, e chi la vince la Coppa? La Lazio. Dico, tu immagini, tutto al contrario, che casino che succederebbe. Te svegli e te ritrovi hai discariche nelle riserve naturali e gli inceneritori nei centri abitati. Tipo, o mettono a Arbano, dove c'è stata tutta l'uva doc, capito? I prodotti top. Dico, tu immagini, il casino succederebbe proprio il casino. Oppure dopo un terremoto, invece di piangere i morti, c'è sta gente che festeggia, ride, e sperando che ne arrivi un altro a più presto per specularci su. Dico, tu immagini, Giuseppe, che casino succederebbe? A benzina, che il petrolio diminuisce, la benzina aumenta. Oppure nel 2012, come dicono i Maya, la Terra si ferma e comincia a girare al contrario. A terra, sì, Giuseppe, a terra al contrario. Nel 2012. Ma siamo nel 2013. E ne è successo niente, beh? Niente. Ma che ci posso credere, Giuseppe? Dico, ma non, dimmi che questa è la rotazione giusta. Giusta. È questa la rotazione giusta. Vabbè, tutto al contrario, tutto al contrario. Ma te le immagini che succederebbe se a un certo punto decidono di fare una ferrovia ad alta velocità per risparmiare 5 minuti spendendo il doppio dei soldi? Ma dai, non è possibile. No. Magari la chiamano TAV. Ma no. Alta velocità. Che ci metti in meno, arriva a Lione che da Albano arriva a Tiburtina. E poi ci va a fare a Lione? A Lione, perché bella. Ma Lione io ce lo sono ammazzato, ci vorrei andare. Bella, io. Bella, tocca andarci. E poi ci metti poco, no? 5 minuti, 5 minuti in meno, non so di cosa, ma 5 minuti in meno. No, poi può fare pure Kiev Lisbona, lo può fare. Bella. Non so che cazzo vai a fare, comunque cammini e vai. Ah, questa. Ah. Ma questa cosa della velocità, allora devo dire una cosa, posso, Giuseppe? Che Giuseppe Spinillo, l'hai dovuto. È dovuto. Giuseppe Spinillo è uno degli organizzatori, diciamo, della giornata mondiale, che poi mondiale non lo diciamo, lui dice che giornata mondiale della lentezza, ma è giornata, diciamo, nazionale, pure tanto, nazionale, del quartiere. La giornata del quartiere sulla lentezza, si è inventato lui insieme a Simona Perrusio, un'altra. E hanno fatto la giornata della lentezza, che sarebbe quando è il 13 maggio. Neanche devo sapere, Giuseppe. Sì, 13 maggio. Il 13 maggio, noi la festeggiamo quando ci pare. Comunque. Il 18, siamo lenti. Siamo lenti. E la giornata della lentezza mi invita ogni volta, è bellissima questa cosa sulla lentezza, perché come dice lui, la lentezza in un mondo che va veloce è... eversiva. Bellissimo. Cioè, dico meglio, dico che il bradipo, animale lento, in un mondo votato alla velocità, è un animale eversivo. Cioè, state a capire, io non ci sarei mai arrivato a... Cioè, io sono un eversivo e non lo sapevo. Cioè io marzo, capito? Io da ragazzo ero proprio eversivo, proprio, cioè rischiavo proprio del gastro, Giuseppe. Sì, perché marzava a luna e tu ero proprio eversivo, altro il bradipo, proprio mi svegliava il bradipo, mi portava la colazione del bradipo. E questa cosa sulla lentezza, io quando ho conosciuto Giuseppe Spinillo, mo non mi ricordo quanti anni fa, la prima cosa che mi ha colpito era la sua, no lentezza, la sua pacatezza. E poi mentre mangiavamo ha detto: ti devo dire una poesia. Ho detto: guarda Giuseppe, sto mangiando la pizza, mi sei fredda, è breve. E mi ha detto questa poesia qui che mi ha conquistato, una poesia sulla lentezza, proprio, è proprio la chiave. Prego Giuseppe, se te va, eh? Bradipo pigrizia, guardo al mio ramo con mirata lentezza, gli sorrido ed allungo con fiducia la mano. Aspetta mi vita, io arrivo. Ah, capito? Io sono rimasto fermo così e invece è stato velocissimo a fregarmi il carciofino con l'oliva. Ho detto sempre: sarà pure un bradipo, Giuseppe, però qua è sparito il carciofino con l'oliva. Non so come hai fatto, è veloce nel rubare il cibo, Giuseppe Spinillo. Perciò, questa cosa sulla lentezza, diciamo, io avevo scritto una cosa sulla lentezza. La lentezza ti dà il piacere. Io ho preso tutte cose qui e là scopiazzate da Spinillo, poi lo assemblate come una macchina, diciamo, non di serie, però tutta, capito? Quello che facevi tu da bambino. La lentezza ti dà il piacere di gustare i piccoli momenti della vita, i particolari, i dettagli, che con la velocità naturalmente si perdono. Ci sono cose che hanno bisogno del loro tempo, della loro lentezza, ma stanno riuscendo a modificare anche quello. Stanno accelerando i tempi della natura, accelerano la maturazione della frutta, della verdura, accelerano la crescita degli animali, accelerano le stagioni, stanno abituando le persone a non avere più pazienza ad aspettare. Tra un po' si partorirà tra 2 mesi. Si vuole tutto e subito e più velocemente possibile, e si vede anche dal consumo delle droghe, non più oppiaci, hashish, marijuana. Adesso tra i giovanissimi c'è il boom di anfetamine, dello speed, cocaina, non è più come una volta, vicino a canna, con amici, poi dice: vabbè, non prendi i cornetti, no, fammi nenare. Adesso tutto veloce, i cornetti devi neanche li prendi, perché dice passi veloce, dice è chiuso il negozio, non lo so, via. E poi la lentezza è fondamentale, anche nei semplici gesti. Come puoi bere tutto di un fiato un bel bicchiere di Brunello di Montalcino, per esempio? Avercelo, Giuseppe, avercelo. Però io me l'avevi regalato tu, ti ricordi? Una volta ce l'avevo. Ho detto: ma che è Coca-Cola? Eh? Dico, io una volta, un amico mio ha detto che era amante del vino, è venuto a casa. Gli ho aperto una bottiglia di vino 2 ore prima, l'ho fatta ossigenare e l'ho... come si dice? Scaraffato. Giuseppe Spini. L'ho scaraffato. Ma si può dire scaraffato? Ma è brutto. Sembra brutto. Sembra scaraffato. Fatemi un trillo sulla Radio Onda Rossa per aiutarmi. Decantato. L'ho decantata. Lui è arrivato. Se l'è appena visto, se l'è versato e si è scolato tutto in fiato. Mi ha detto: c'avevo una sete. ho detto aspetta che c'ho al frigo, c'ho un vino bianco che è migliore di questo, ho preso quello della Coppa da 0,80 centesimi, ho versato, si è riscolato tutto un fiato, ha detto te lo posso dire che è meglio, e tu certo lo puoi dire. Invece Giuseppe Spinillo una volta si stava strozzando, c'era solo il Brunello di Montalcino, pur di non berlo, ha detto solo quello c'hai, sì, preferisco morire che berlo tutto di un fiato, mi ha detto, è questa, ti ricordi Giuseppe? Lo so. La lentezza è come quando fai l'amore. Adesso non conosco i gusti di quelli che ci stanno ascoltando, però come, cioè, non puoi fare subito con una donna, no? Tipo, cioè, la bellezza dei preliminari, no? Lo svestimento, indumento dopo indumento, con i minuti che scorrono lenti, lentissimi, che sembrano interminabili, le scarpe, poi le calze, la giarrettiera, il vestito, il reggiseno, poi dici, più, poi vai veloce perché dici, ma è inverno, tu d'estate, più, cioè, pure il clima comunque agisce sulla lentezza, no? Perché d'inverno ce l'hai il tempo per svestire, l'estate che lo fa? Cioè, e fa. Vabbè, no. Mangia piano, diceva mio padre. Piano, lento, assapora. Piano. Mangia piano, altrimenti ti fa male. Mangiare con lentezza, invece, aiuta la digestione. La prima digestione avviene in bocca. Ho capito, come si fa? Te devi sbrigare, la giornata è mozzico, se perdi tempo anche a masticarci, va, fine. Vivere e lavorare con lentezza in un mondo che vive accelerato non è facile. Devi produrre velocemente per un mercato che fagocita velocemente. Anche i cantanti, gli attori, i film, le idee, gli uomini arrivano velocemente e vanno via ancora più velocemente, ingurgitati dal meccanismo, e non hai tempo per apprezzarli, di capire. E quando ci riesci, già sono cose superate, vecchie. Sono in arrivo altre cose nuove, ti devi adeguare in fretta, altrimenti sei out, sei fuori dal sistema. C'è internet, la rete, vedi video e filmati da altre parti del mondo. Con un clic stai in Australia, in Brasile, in Canada. Il tempo non ti basta mai. Se la connessione è lenta ti arrabbi, anche se non hai niente da fare, ma non puoi rallentare, non te lo consentono. Sei dentro un sistema, la pubblicità ti tartassa con macchine veloci che arrivano a 100 km orari in meno di 8 secondi. Ma do cazzo devi andare, il limite è 60, ma tu non te frega, prendi la multa, ma devi correre, non devi rallentare, devi accelerare ancora di più. E allora togli il tempo al cibo, lo compri già pronto, o ti fermi un attimo al fast food, al lavoro ti diminuiscono i giorni di ferie, e allora niente più viaggi lenti, quelli di un mese per intenderci, e se fanno ferie cortissime, dei veri e propri ride di ferie, ti muovi soltanto con gli aerei, super scontati, low cost, weekend in Turchia, sabato e domenica in Portogallo, quell'altro dopo in Scozia, si viaggia così, senza capire, un posto vale l'altro. Dice Donnamo, che cazzo ne so, l'importante è che ci sia l'offerta. Ho incontrato gente a Kathmandu, a dicembre, con l'infradito, i calzoncini corti. Ho detto, ma che? Dice, non lo so, da un mar morto, poi siamo capitati qua, Dio che freddo, oddio. Tutto si adegua e si sacrifica alla velocità, anzi, tutto si adegua e si sacrifica all'alta velocità. Si sacrificano valli, si sacrificano popolazioni, si sacrificano... Ma per andare dove, Giuseppe? E allora all'alta velocità, mi sa tanto che il prossimo anno dobbiamo fare l'alta lentezza. Con la velocità ci hanno illuso che avremmo avuto più tempo, invece ce l'hanno tolto. Per non parlare dei lenti, i lenti. Quei bei balli lenti, che uno andava alle feste soltanto per quelli, all'improvviso, boom, fuori moda, solo balli veloci, ma chi cazzo ha deciso? Che poi tutti insieme, ogni festa che andavi, cioè, è stato un disegno divino, tutti l'hanno tolti allo stesso momento. Riprendiamoci il nostro tempo, i nostri spazi, la nostra lentezza. Senza la lentezza non siamo liberi di pensare, non siamo liberi di decidere, non siamo liberi di fermarci e, se vogliamo, di scendere. Alle elementari la maestra disse a mia madre che ero lento nell'apprendere, ma io non ero lento, era lei che spiegava veloce e poi nessuno la capiva, ma io ero l'unico che alzava la mano. Scusi, non ho capito Giuseppe, non ho capito. Ah, bravo, la lentezza, grazie Giuseppe. Io c'è una cosa che volevo leggere per finire il mio contributo a questa bella giornata. Volevo leggere una cosa. Vai, ci mancherebbe. E il mio inno, chi mi conosce sa praticamente che non posso finire una cosa senza averla letta. Ma non è il caso adesso l'inno da Roma, adesso l'inno da Roma. Ah, scusa, quello tuo dici. Scusa, mio. Scusa. È un po' come la locomotiva dei Guccini. Ah già, certo. Io amo gli spiriti liberi che non si fanno ingabbiare da niente e nessuno, né per amicizia, né per amore, né per paura o dolore. Spiriti liberi senza riserve, che non li uccide il rancore, che amano sempre il sapore delle notti stellate, del mare, Io amo chi ha il coraggio di amare senza giurarsi l'eterno, l'assoluto, l'immenso. Chi non vuole che io segua i suoi passi perché io sappia aspettare, imparando a restare anche solo, rispettando ed amando il suo volo. Ed io amo quei passi tra i silenzi più bui della notte, mentre fanno ritorno tra i rumori scoscesi del giorno. Io amo chi non sa vivere senza creare, chi si emoziona a sognare un domani diverso e lo mette in un verso, nelle note di un piano, mentre il cuore gli batte più forte e non sono mai morte le emozioni che gli tengono vivo lo sguardo. Hanno perso campionati, elezioni e derby del cuore, ma trovano sempre parole per potervi trionfare, e se chiedono amore non è mai per favore, o li ami o li devi ammazzare. Ed io amo chi lancia un messaggio alle stelle, ai gabbiani, a quei pesci che fendono oceani e distese infinite di cielo, che tagliano il velo d'un lago gelato, pattinandovi sopra, scivolandovi come sul proprio passato. Io amo gli spiriti liberi che non prendono né danno lezione, che vivono assieme o divisi ogni loro emozione e non dicono basta, non dicono basta, non dicono basta, perché tempo per cambiare ne resta. Ah, Giuseppe è stato un piacere, Giuseppe. Paolo Erpesce Nanni. Ah, allora, come Guccini, io chiudo anche io con una cosa breve, anche visto che stiamo arrivando verso luglio. Federico, posso, chiudiamo con questa, penso che allora queste altre 50 storie le metto da parte, le levo. Mazza, reggi un po', Giuseppe, che peso. Allora, innanzitutto grazie a Federico che ci ha voluto qui, grazie a Radio Onda Rossa, è stato un piacere per me e anche per Giuseppe Spinito, giusto? Così, perché non ce la fa più a fino la voce, e visto che si sta avvicinando luglio, volevo chiudere con questa mia storia. Anche questa poteva essere una bellissima storia da raccontare. I presupposti c'erano tutti, a partire da quella splendida giornata di luglio. Poi c'erano Marena, Marina, Rita, Gina e le fantastiche persone che ci hanno accolto ed ospitato. Poi il corteo dei migranti, l'incontro con Manu Chao, i canti, i balli, le bandiere, il corteo degli migranti, il calore e il colore del movimento. E la notte sul lungomare a mangiare pesce fritto e bere vino tra genti di mille nazionalità. Ma tutto ad un tratto la storia si blocca, si inceppa, non va più avanti, perde di significato. Esce dal contesto delle altre mie storie. Viene bloccata dalle grida, dal frastuono degli elicotteri, dall'odore acre dei lacrimogeni. Viene bloccata dall'arroganza e dalla violenza. Viene bloccata dall'arroganza e dalla violenza, su gente inerme, con mani bianche e braccia alzate. Viene bloccata dall'arroganza e dalla violenza, di divise blu e di personaggi ambigui di nero vestiti. Viene bloccata dall'arroganza e dalla violenza, dall'omicidio e dalla menzogna. E stavolta non io, ma loro sì, che se sono proprio superati. Ma nel peggior senso della parola. Genova, 2001, Pesce, Spinillo e Federico non dimenticano quando uno muore. Grazie.